Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, un grande scrittore americano che è divenuto di culto in Italia è Raymond Carver, non soltanto in Italia per la verità, ha avuto un successo planetario. A Raymond Carver è dedicata adesso una completa e ponderosa biografia di cui è autrice Carol Sclenicca. Si intitola il libro Raymond Carver, una vita da scrittore, pubblicata da Nutrimenti, 25 euro, 782 pagine ed è tradotta da Marco Bertoli. Questa biografia è certamente un'opera definitiva, quasi un must per chi è appassionato di Carver, il grande padre del minimalismo, e l'autrice stessa spiega nel libro qual è il nesso tra la vita e l'opera di questo grande autore. Sentiamoci spiegare dall'autrice stessa qualche aspetto del libro. Caro Sclenicca, la sua biografia così ricca su Raymond Carver sembra quasi contraddire il minimalismo tipico dei suoi racconti. Ecco, che cosa significa questa scelta? Forse che la vita di Carver era essa stessa un romanzo? A very fat novel, because Carver took his experiences and shrank them down to very intense. Sì, un romanzo è effettivamente molto consistente. Carver, difatti, ha preso le sue esperienze personali e le ha condensate in storie brevi, ma allo stesso tempo intense, che i lettori hanno trovato davvero toccanti, proprio perché credo che lui abbia messo così tanto della sua vita in queste storie. Tutti i lettori si sono chiesti almeno una volta che tipo di uomo potesse aver scritto storie di questo genere, perché quando sono uscite per la prima volta ci si rese subito conto che erano qualcosa di completamente diverso rispetto a tutto ciò che si era mai letto prima negli Stati Uniti. Because when they first came they were quite different from anything we'd seen in the United States before. Nel suo libro lei affronta tre temi principali della vita di Carver. Uno certamente è quello dell'alcol, che ha giocato un ruolo fondamentale nel suo percorso. In che cosa la dipendenza dall'alcol ha influenzato la vita e i lavori di Carver? Alcohol first was his way of trying to be an adult and pull himself. All'inizio, per Carver, l'alcol è stato un modo per sentirsi adulto, per uscire dalla monotonia del suo piccolo paese operaio nel quale viveva. Credo anche che quella di bere sia stata un'abitudine che ha ereditato dal padre, che beveva regolarmente. La situazione psicologica di Carver era piuttosto complessa. Si identificava nello stile di vita di quella generazione di scrittori americani come Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald, che soprattutto durante il soggiorno europeo si sono dati fortemente all'alcol. E Carver, purtroppo, intraprese lo stesso percorso, addirittura più rapidamente, tanto che ha anche rischiato di morire per questo. Così a 40 anni fu obbligato a smettere di bere. He had to stop when he was 40 years old. Quindi per lui fu un grandissimo successo l'essere riuscito a smettere di bere. Yes, it's unusual in the lives of. Sì, è stata una cosa davvero eccezionale. Voglio dire, rispetto a tutta la generazione di giovani scrittori americani alcolizzati, lui è stato sicuramente l'unico a smettere di bere e continuare a scrivere non solo con grande successo, ma anche meglio. Perhaps even better. L'altro tema importante è quello dell'amore. La sua vita affettiva è stata una specie di triangolo tra lui, la moglie Marian e l'altra compagna e in seguito seconda moglie Tess Gallagher. Insomma, una relazione abbastanza complicata con queste due donne, mi pare. Very complicated, very poisonous in a way. Oh, molto complicata. Oserei dire avvelenata piuttosto. Le due non si piacevano affatto, ovviamente, e non si piacciono tuttora. Sono infatti entrambe ancora vive. E per me è stato piuttosto difficile raccontare questo rapporto perché dovevo trovare il modo per rendere giustizia a ciascuna di queste due donne, ognuna delle quali rivendicava il proprio rapporto speciale con Carver. La sua prima moglie, Marianne, è stata sposata con lui per 20 anni, hanno avuto due figli, ed è stata proprio lei a sostenerlo durante gli anni difficili in cui era senza soldi. L'altra donna, Tess Gallagher, che Carver ha sposato poco prima di morire, era una poetessa di successo, che l'ha aiutato non solo a godersi la popolarità del momento, ma anche a conservare l'attenzione dei suoi lettori nel tempo, cosa che lui non era molto bravo a fare da solo. Really remain successful because he didn't do very well by himself sometimes. Lui poi risentì del successo della seconda moglie. Yes, I think he Sì, lui l'ha apprezzato e credo che entrambi si considerassero una coppia di successo nella loro vita pubblica e letteraria. Public literary life. Il terzo tema del libro è quello del rapporto, anche questo molto contraddittorio, con il suo editor Gordon Lish. Ecco, che cosa ha rappresentato per la carriera di Raymond Carver la figura di questo editor che aveva lui stesso velleità artistiche, che voleva intervenire modificando i testi dell'autore? Avevano un rapporto di dipendenza reciproca. L'editore gli ha permesso di pubblicare bene i suoi lavori. È stata la prima persona che gli ha fatto guadagnare dei soldi con il suo lavoro di scrittore. Ma anche questo rapporto ha finito per deteriorarsi. Gordon Lish voleva impadronirsi dei racconti di Carver, ma Carver, che nel frattempo era diventato una persona più forte, non glielo permise e si riprese i suoi lavori. Questo episodio è il secondo grande conflitto di cui parlo nel mio libro. So that's the second big controversy in the story. Ma la presenza di Lish in qualche modo modificò lo stile e i contenuti dei lavori di Carver? It did change his style. He learned from him, I think. Sì, ha cambiato il suo stile, l'ha adattato alle esigenze di Lish. D'altra parte, ogni scrittore ha bisogno di un editor. Tante volte la gente se lo dimentica. Così Carver imparò a scrivere con uno stile più asciutto, il cosiddetto minimalismo, ma alla fine sentì il bisogno di espandere nuovamente la sua scrittura. Insomma, fino a quando c'è stato un equilibrio tra i due, non è stato certo un tipo di equilibrio che ha reso felice Carver. Come spiega lei il grande successo di Carver ai nostri giorni? Lei sa che in Italia, per esempio, Carver è molto apprezzato. I would like you to tell me that, but for us, I think Carver really. Vorrei che me lo dicesse lei. Per noi, Raymond Carver è stato davvero un visionario. Ha previsto molti scenari, come quello economico che stiamo vivendo oggi. Ha previsto come la classe operaia sarebbe diventata una sorta di classe di schiavi malpagati. Ha intuito che le persone avrebbero fatto davvero fatica a tirare avanti, a sposarsi, a fare un figlio o ancora a mantenere il lavoro. Insomma, Carver aveva previsto le battaglie che ognuno di noi affronta quotidianamente e che probabilmente per molti americani iniziarono già negli anni 70 e 80, durante i quali sembrava esserci il benessere per tutti, benessere che però è stato spazzato via negli anni successivi. Carver anticipò per iscritto tutto ciò. Bene, grazie a Carol Sklenicka, autrice di Raymond Carver, Una vita da scrittore. Thank you very much. I'm a union woman, just as brave as I can be. I do not like the bosses, and the bosses don't like me. Join the CIO, come and join the CIO. Una interessante esperienza americana è quella sintetizzata in un microcosmo analizzato da uno studioso italiano, Alessandro Portelli, che insegna letteratura anglo-americana all'Università di Roma. Il libro si intitola America profonda, 536 pagine e 35 euro ed è pubblicato da Donzelli. Portelli giunge in America sulla scorta di una fascinazione musicale. È giovane, ha ascoltato alcune musiche di carattere sociale, per esempio quella di cui avete ascoltato alcune note, Join the CIO di On Molly Jackson, che è una cantante che proviene proprio dalla cittadina di cui adesso parliamo. E lo studioso dunque giunge nel 1963 ad Harlan County, che è una piccola città nel Kentucky, centro minerario e di grandi battaglie civili per la tutela dei lavoratori, per l'integrazione, per la difesa dell'ambiente, messo in pericolo dalle miniere a cielo aperto di cui, guarda caso, abbiamo parlato a proposito del romanzo Libertà due settimane fa. Questo libro è una bella testimonianza di storia orale perché è costruita intorno a tantissime testimonianze raccolte dall'autore che tutte insieme rappresentano un'impressionante controstoria dell'America. Una controstoria studiata da un osservatorio apparentemente periferico e appartato, ma che è stato testimone di tante battaglie, che non è stato affatto ininfluente e insignificante, anzi ha espresso la vitalità, i contrasti, le contraddizioni di quel grande paese. Sentite per esempio queste righe sull'apertura di Harlan all'integrazione razziale e ai problemi che essa rappresentò anche per i cittadini di colore. Willetta Lee. Quando integrammo, perdemmo qualcosa di grande valore. Perdemmo persone che ci volevano bene, persone che ci tenevano a insegnare a noi. Ci insegnavano a rispettare gli anziani, a non rispondere sgarbatamente, a non provocare. Avevi rispetto per gli insegnanti, perché loro ci tenevano a te. Prima che integrassero le scuole, i nostri insegnanti ci spingevano davvero a studiare e imparare. E dopo l'integrazione, sembrava che agli insegnanti che avevamo non gliene importasse. Quando andavo a scuola, io ero tutta nera. Ci incitavano sempre a fare qualcosa di noi stessi. Ci insegnavano che anche se facevi lo spazzino, dovevi essere lo spazzino migliore che potevi. Se non riesci a imparare altro che portar via l'immondizia, sii il miglior netturbino che puoi. E dopo l'integrazione, questo non glielo insegnavano. Vi segnalo infine che a Lissone, dal 10 al 19 giugno, si svolgerà la terza edizione di Libritudine, Festival del Libro della Brianza. Molti appuntamenti e incontri con autori sul tema del libro. Per esempio, domenica prossima vi segnalo che avrà luogo la presentazione del libro di Paolo Roversi, Milano Criminale, pubblicato da Rizzoli, e poi in serata un incontro di pugilato letterario su Dr. Jekyll e Mr. Hyde con Marco Rossari e Michele Rossi. E a questo punto la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, cambiamo completamente punto di vista e torniamo in Italia, anzi a Napoli, dove è in corso fino al 12 giugno la mostra Le meraviglie del tesoro di San Gennaro, le pietre della devozione. Nel corso di questa mostra potrete vedere alcuni dei tesori più importanti del tesoro di San Gennaro, che abbiamo scoperto essere il più importante al mondo. Ma sentiamo qualche particolare su questa mostra da Marco Carminati. Sì, ciao Salvatore. In effetti è l'occasione buona questa per poter ammirare davvero il tesoro di San Gennaro, perché in via del tutto eccezionale a Napoli fino al 12 di giugno i pezzi più importanti, i capi d'opera di questo tesoro si trovano esposti al pubblico. Dico questo perché di solito gli oggetti più preziosi di questo tesoro non sono esposti al pubblico, si trovano nei caveau del Banco di Napoli in via Toledo, molto molto al sicuro, rinchiusi in camere forzate con delle pareti gigantesche. Perché? Perché si tratta davvero di oggetti straordinari. Pensate che solo tre anni fa, è stata fatta la perizia gemmologica su questi oggetti. Per molto tempo gli arcivescovi di Napoli hanno evitato di far calcolare il valore venale del tesoro di San Gennaro per ragioni intanto comprensibili. In una città dove la povertà è diffusa è inutile insistere su queste ricchezze. D'altro canto c'era anche un po' la paura che qualche oggetto fosse decorato con dei fondi di bottiglia e non con delle gemme preziose. In realtà questa perizia gemmologica, che è, tra l'altro, è stata pubblicata in un bellissimo libro della Libreria dello Stato, dimostra che il tesoro di San Gennaro è il tesoro più ricco in assoluto che ci sia al mondo, molto più ricco della corona, del tesoro della corona d'Inghilterra e di altre raccolte, il tesoro degli zar, eccetera. Che cosa rende così ricco questo tesoro? Beh, ci sono degli oggetti veramente mirabolanti che vale la pena di andare a vedere. In particolare esiste il busto di San Gennaro, e che tra l'altro è il gioiello più antico. È un busto che risale al 1305, quindi è stato realizzato dagli Angioini. È un busto che serviva per contenere il suo cranio, quindi è un busto reliquiario, ed è tempestato di smalti, è in oro e argento tempestato di smalti. Di solito non lo si vede perché questo busto è coperto dai paramenti liturgici. I napoletani possono andare nella cappella e pregare il loro santo, ma non lo vedono mai, diciamo così, senza abiti, lo vedono coperto, quindi noi non vediamo l'oggetto, il gioiello, il busto non si vede. Questa invece è l'occasione di andarla a vedere. Ma entrando in questi giorni nel tesoro di San Gennaro, anzi nel museo del tesoro che si trova annesso alla cappella, possiamo vedere appunto il collare di San Gennaro. Il collare di San Gennaro è una collana fatta di 13 maglie d'oro, è forse la collana più preziosa che c'è al mondo, e per secoli attorno a questa collana i re Borbone, i re d'Italia, i Savoia, i nobili, eccetera, hanno regalato pendagli e croce, aumentando a dismisura la ricchezza di questo gioiello, che oggi è considerato in assoluto, credo, il gioiello più importante che ci sia al mondo. Ma il santo può anche vantare il cappello più prezioso del mondo. La mitria del vescovo Gennaro è una mitria che, appunto, a seguito della perizia gemmologica si è rivelata tempestata di qualcosa come 3.890 gemme, di cui 3.000 328 sono diamanti e poi ci sono anche 198 smeraldi che danno la colorazione verde, perché domina il verde in questo. Quindi siamo davanti a degli oggetti straordinari, frutto della devozione assoluta che i napoletani, dai re fino al popolo, hanno avuto per questo santo protettore. E oggi il tesoro è esposto anche per renderci conto di questa importante novità, appunto, che è aver saputo finalmente a livello scientifico, con una elaborazione fatta dai maggiori esperti al mondo, che l'Italia, Napoli, conserva davvero una delle ricchezze più straordinarie che ci siano sulla Terra. A San Gennaro sono intitolati due libri che adesso vi presento. Il primo è un classico quasi del 1948, San Gennaro non dice mai no, di Giuseppe Marotta, scrittore, giornalista, soggettista cinematografico, il quale aveva scritto nel 1947 un libro di grande successo, L'oro di Napoli, che divenne poi il grande film di Vittorio De Sica. L'anno successivo Marotta pubblica appunto questo libro, che adesso è riproposto da Vagliano, 198 pagine, 14 euro. In questo libro Marotta rivisita la sua città con bonomia, con affetto, anche con malinconia, raccontando episodi e ricostruendo un clima di una città scomparsa con tratti di umanità straordinaria. Semplici bozzetti? No, dice Michele Prisco nella sua prefazione, che anzi rimprovera la cultura italiana di non avere colto la dimensione autentica e l'importanza di uno scrittore come Marotta, che va davvero riscoperto. Marotta non perse mai il suo legame affettivo con la sua città, nonostante fosse diventato milanese d'adozione. Sentite per esempio queste righe, nelle quali viene descritto il ritorno a Napoli proprio del tesoro di San Gennaro, di cui ci ha parlato adesso Marco Carminati. Questo ritorno fu curato da una figura particolare, il cosiddetto re di Poggio Reale, al secolo Giuseppe Navarra, che era nato povero ed era poi diventato ricchissimo e che fece poi moltissimo per la sua città e per il suo quartiere, non ultimo appunto il ritorno del tesoro di San Gennaro. Giuseppe Navarra riportò da Roma a Napoli il 26 gennaio del 1947 il tesoro di San Gennaro. 3 miliardi. Scortati da un centinaio di poliziotti, avrebbero fatto gola a molta gente. Navarra partì accompagnato dal solo principe Colonna di Pagliano, il quale recitò Ave Marie per tutto il percorso. Che viaggio! Si erano aperte le cateratte del cielo, straripò il Volturno, ma il tesoro doveva arrivare a Napoli e arrivò. Al cardinale Ascalesi, che voleva conferirgli un premio in denaro, Navarra disse: «Siano dati ai poveri questi soldi, io bacio l'anello». L'altro libro in cui ritroviamo San Gennaro è Il sangue di San Gennaro di Sándor Mára, il grande scrittore ungherese divenuto assai popolare in Italia con il romanzo Le braci. Anche questo è pubblicato da Adelphi, 341 pagine, 19 euro, ed è curato da Antonio Donato Sciacovelli. Marai lascia l'Ungheria nel 1948 e resterà a Napoli fino al 1952, poi da qua inizierà un lungo viaggio che lo porterà negli Stati Uniti. Questo di Marai è un vero e proprio romanzo, nel quale la descrizione della Napoli quasi contemporanea a quella di Marotta si intreccia con due misteriose figure di stranieri giunti nella città, niente meno, dicono, che per redimere il mondo. Ma nella descrizione dello straniero troviamo i tratti di quel mondo da cui Marai stava fuggendo, il mondo del comunismo. Proprio l'anno dopo la rivolta del 1956, del resto, lo scrittore ungherese avrebbe pubblicato questo romanzo in Germania. E da questo romanzo vi propongo alcune righe sul profilo dello straniero misterioso in cerca di libertà a Napoli. Passeggiamo per il giardino. Gli aranci erano in fiore. Mi disse che stava in guardia, che già in patria aveva fatto molta attenzione, aveva visto degli uomini che simpatizzavano sinceramente per il bolscevismo, con tutta l'anima. Un genere di persone difficile da definire dal punto di vista sociologico, ma potremmo chiamarle sottoproletariato. Si tratta dei contadini più ignoranti, dei perdigiorno di paese, degli operai poco qualificati e dalla vita disordinata, per i quali il bolscevismo rappresenta una possibilità di realizzazione, ma al contempo l'occasione di vendicarsi, di sfogare gli istinti più crudeli, di vivere nell'euforia più selvaggia e irresponsabile. I capi dei regimi nazisti e comunisti disprezzano il sottoproletariato, ma se ne servono volentieri per portare a termine il lavoro sporco. Sono persone che aderiscono immediatamente a qualunque genere di partito di maggioranza che prometta loro privilegi e protezione. Andiamo più a sud, in Sicilia, con Stefano Malatesta, collaboratore di Repubblica, che ha pubblicato con Neri Pozza La pescatrice del Platani e altri imprevisti siciliani, 184 pagine, 16 euro. Questa è una serie di incontri e di suggestioni siciliane da parte di un siciliano d'adozione che, dopo una prima giovanile scoperta della Sicilia al seguito di un amore svedese, finisce col diventare un vero siciliano, come ci confermano le tante storie, tanti racconti che qua ci vengono presentati. E a questo punto il confettino. Oggi un confettino un po' speciale, perché in realtà è dedicato ai genitori. Il libro si intitola Baby Prodigio ed è di Mam Fox, che è un'autrice di libri per bambini australiana. Il libro è pubblicato dal Castoro, 128 pagine, 14 euro, tradotto da Laura Bortoluzzi, e vuole illustrare le virtù della lettura ad alta voce. Il libro insegna come e perché leggere ai bambini. L'autrice ce lo spiega scrivendo che i bambini che si rendono conto durante le prime settimane, i primi mesi di vita, che ascoltare delle storie è come essere in paradiso. E con questo ringrazio Claudia Carusi, redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.